alzare la vostra maglietta intanto e abbassare. I'm dirty, made, mighty and clean. Siamo ancora in fascia un po' protetta, ma non tanto. Beh, considera che alle 8 di venerdì sera non ci ascolta understand? Praticamente nessuno. Ok, allora so like il pannolone al bimbo. Però il pannolone al bimbo era identica. Allora, attenzione, questa sera le chiamate, non possiamo rispondere a tutte le chiamate, di richieste delle canzoni. Abbiamo ricevuto un casato, ok? E soprattutto non funziona Instagram oggi. Sì, ragazzi, abbiamo WhatsApp e tutti i social che volete, ok? Allora, un abbraccio a Brian Johnson, il cantante degli SDC, che adesso è il cantante degli SDC Live, è Axl Rose. Fa un po' cagare per un Axl Rose. Ah sì? Questi erano gli AC/DC con TNT. Io non mi sento. Adesso anch'io. Mi sento. E così siamo già sudatissimi. 103.1 Radio Fujiko, welcome. Radio Città Fujiko, non dimentichiamo città perché è la struttura di tutto città quanto. Fujiko. Mi raccomando, non dite mai Radio WhatsAppateci su 333-180-9494 se ci state ascoltando. Se non ci state ascoltando, a parte che siamo pieni di messaggi, quindi dobbiamo mettere in ordine. Il dramma reale sono due risponderemo cose. A tutti. Esatto. Rispondiamo a tutti. Allora, ci sono non intasate il centralino, rispondiamo a tutti. Ci sono due problemi. Allora, numero uno, la musica di sottofondo non c'è perché io ho formattato il computer e non so come poterla mettere su. E per cui Ma non è un problema. Mettiamo anche una situation. La facciamo così, guarda, adesso ti faccio vedere. Andiamo su Hide, su Home. E poi, quindi, ragazzi, guarda, mi raccomando, sintonizzati 338. Eccolo qua, guarda. 80 No, 338-18. No, è questo qua, 333-180-9494. Oh, ho messo sulla musica di sottofondo, sentimo qua. Ti va bene? Allora, bene, ragazzi, allora, siamo rientrati con il sound. Allora, mi raccomando, 333-180-9494. E con una voce così come si fa a non messaggiare DJ Fede a Coxo Spaziale? Fra l'altro, cosa mettiamo adesso? Abbiamo tutto quello che vuoi, eh? Io metterei del funky. Del funky? No, del dance. Disco dance. Allora, disco. Visto che il DJ sei tu, adesso andiamo a vedere. Allora, qua ero quindi su torna indietro. AC/DC Classic Rock, andiamo a vedere, eccolo qua, Funk, Donna Summer, vuoi? Aspetta, Parliament, Prince, Freak Power, Funk, sì, Freak Power, Freak Power. Va benissimo. Drive Through 1994, qual è? Allora, dove eravate quel giorno lì nel 94? Ah, dove eravate? Bill Banzoni. eravate in campeggio, eravate a lavorare, o non si può dire. Chissà. Però adesso a noi lo potete dire. Che power. Super funky. Big time. What the world, funky. Allora, il paio di gossip è questo. Il primo, facevo le gare di nuoto in Coppa Italia e surf the onde in Francia. Cioè sei un... Quelle onde, quelle grandi verdi in Francia, o Segor. Un'altra gossip è che, vabbè, questo che rimane in radio perché siamo maggiori... Rimane in radio tra noi. Rimanga fra noi perché siamo in fascia 1, fascia 2, fascia 3. Io sono dell'era, facciamo una fascia unica e siamo a un bel posto. Sono andato dal cliente dove... a fare i contratti e invece no, non fate contratto. Ah no? Era, qua, era questa la gossip? Non so dove cominciare, Stefano. No, io raccontiamo che io e te ci siamo conosciuti in Logos, che era una casa editrice, esiste ancora? Non lo so, sì, esiste ancora. Con la Taschen, una casa editrice di Modena. Infatti, tu sei di Modena. Modena? Io sono di Modena, in provincia di Modena. Modena Park. Modena Forever. Ho capito. Però Modena in the town, io vivo di giorno, ma di notte no. Vabbè. Di notte sono around Milano, Bologna, cioè, capito? Io sono un senti, passenger, senti, come senti Iggy Pop. Iggy Pop per partire a Get Back. Senti. Iggy Pop. Non parte perché in realtà è un aereo reale. È che fa un caldo qui dentro, per cui ci ascoltiamo gli aerei. Noi abbiamo dell'aeroporto. Anche gli aeroplani. Esatto. Abbiamo tutto qua. Abbiamo tutte le aziende. Allora, questo qua era un 767 versione B. Perché la versione S era arrivato prima, la versione di Pasquini. Ma secondo te stava partendo o stava andando? Secondo me era indeciso. Infatti voleva venire a Radio Fujiko. Ho capito. Perché non, dove vado come aereo? Vai quel che vuoi. Se vuoi venire a Radio Fujiko, welcome. Allora, intanto la settimana scorsa c'è stata Fedra, io non c'ero e ci sono questa settimana, ma la settimana prossima ci sono di nuovo io con probabilmente qualche psicologa, perché ogni tanto forse ne abbiamo bisogno. Allora, almeno una volta all'anno chiamiamo delle bellissime psicologhe, anche molto simpatiche, che appunto ci daranno qualche aiuto e che effettivamente ne abbiamo bisogno. Nel frattempo ci sarà la riunione generale dello gli stati generali di Radio Città Fujiko, per cui scopriremo se Coxo Spaziale continuerà prima di tutto a trasmettere, perché comunque noi siamo sempre vicini ad essere cassati, giustamente, del resto, voglio dire, quando uno fa la radio in questo modo non c'è altro di che dire. E numero due, scopriremo se la nostra trasmissione continuerà il venerdì alle 8, dalle 8 alle 9, che è il programma, che è il momento in cui anche chi è in tangenziale spegne la radio. Rock and roll. Allora, cosa, sì. Perché noi ospitiamo le psicologhe? Perché noi insegniamo alle psicologhe, siamo noi che insegniamo loro. Cioè, loro vengono qua a Redemption, come si dice? A ripigliarsi. Ecco, ripigliarsi. Noi abbiamo le psicologhe, anche belle, che vengono qua apposta per ripigliarsi, perché siamo io e Stefano. Non vengono qua a lavorare, no, vengono qua perché piace the sound, the style, all the radio 103.1. E invece negli anni 80 333, chi ti piaceva? Negli anni 80 chi ti piaceva? Pasquini Stefano. Dai, cosa ascoltavi negli anni? Tu eri un paninaro, ascoltavi Frankie Goes to Hollywood. Tipo. Yes. Esatto, fammi vedere. Welcome to the Pleasure Anzi, Dome. Anzi, Pet Shop wow. Boys. Io metto i Pet Shop Boys. Ecco, i Pet Shop Boys, guardiamo se ce li abbiamo. Che quelli è proprio paninaro. Cazzo, paninaro addirittura. Paninaro. Allora, qua negli anni 80 i Pet Shop Boys non ce li abbiamo. Andiamo a vedere se ci sono nell'elettronica. Socio, nell'elettronica c'è troppa roba qua, è difficile la faccenda. Pizzicato 5 ci sono, no? Niente, torniamo negli anni 80. No, va bene, era bello Pizzicato 5, non è male. Torniamo agli anni 80 un attimo, che volevo, no, invece mi hai fatto venire in mente Welcome to the Pleasure Dome, che è questa. Pesce Boys. No. Frankie Goes to Hollywood. Adesso se parte, partirà. Allora, adesso vi faccio un attimo di riferimento. Il nome Francesco va a Bologna l'ha tradotto Francesco va a Hollywood, perché Frankie Goes to Hollywood era Hollywood, era il nome base, perché poi l'hanno copiato, era Francesco va a Suzzara. Esatto. Era Francesco va a Pavana, capito? Era proprio Francesco Guccini che andava a Pavana a scrivere delle nuove canzoni. Esatto. Nuove canzoni, capito? Poi l'hanno tradotto come Hollywood. Come esempio, come se io e Stefano ci chiamiamo. Come se io e Stefano ci possiamo chiamare come il grande gruppo elettronico, supersonico. cioè ha un intro, a parte un pezzo di 13 minuti, però ha un intro veramente, potevamo farla partire appena era finita quella prima, capito? Non c'è problema, noi facciamo un attimo e farvi rilassare, perché in questo momento vi state facendo i messaggini, mangiando le patatine di McDonald's, quelle cose lì, o i popcorn del Parichi, o la pizza del Cosmo. Comunque se fossero da McDonald's, relax, non sentirebbero Radio Città Fujiko, esatto, perché... però è importante adesso, relax, abbassate i sigillini della macchina, è partito, sempre senti il basso elettrico, che tiro che ha, che tiro, non è male, cioè tu considera che negli anni 80 questa sembrava della gran musica di merda e adesso invece la ascoltiamo ed è bella. Perché? Perché? Perché la musica è tutta bella. Sei molto filosofico tu. Anche quelli anni 30, già anni 30, bellissimo. Ce li abbiamo. Io sono tornato ieri, scusate per l'orario, da un concerto jazz, perché sono suonato sul sottofondo. Quindi sentite il tiro di basso che ha questa canzone. Comunque non credo che suoneremo tutti e 13 minuti, perché ho un appuntamento telefonico fra 6. 5, 4, 3, 2. È di Modena. No, perché siccome mentre ascoltavamo questo bel pezzo, che sono già passati 5 minuti 55, Federico mi diceva che lui, il suo sogno era di diventare monogamo, ma non ci riesce. Sono poligamo. Sei troppo poligamo. Questa ma cosa però, è però essere poligamo vuol dire che devi trattare tutte col sorriso, cioè loro devono essere col sorriso. Ah, certo. Quando i saluti alla fine. Ciao! Col sorriso, altrimenti non sei poligamo. Sei uno stronzo e basta. Ho capito. Cioè, e le figlie quanti si buttano alla sera quando ciao vado a letto, a parte che a volte ti svegli il loro letto, quindi buongiorno col sorriso. Con sorriso, se ti saluto con sorriso vedi che è rock and roll, rock and roll, sei un poligamo pro, non advanced pro, pro, un poligamo pro. E noi invece dobbiamo far partire questa cosa. Intanto che la canzone continua, perché tanto dura 13 minuti e 30. Adesso abbiamo un attimo dei messaggini su WhatsApp, sempre al 333 1809494. Siamo pieni di richieste, quindi scusate se non rispondiamo subito. Esatto. Un attimo, cioè, perché siamo at work. C'è scritto la Lia che siamo dolcissimi. La Lia ha detto che siamo come dolcissimi. Ah sì, ho capito. È perché ci conosce. Ah bene, un ringraziamento Lia, perché è una grande nostra fans. Quindi Lia ha vinto la maglietta di Radio City. La maglietta bagnata di Ha vinto la maglietta Radio City Fujiko. Allora ragazze, per la menzione. Ero arrivato in treno a Bologna e ho chiesto l'informazione dove era Radio City Fujiko. E cosa t'andevo? Una ragazza mi ha detto: ma io ho la maglietta di Radio City Fujiko. Ah, fammela vedere. Ero lì vicino alla PAM. Alla PAM? Via Marconi. Esatto. Oh, ma comunque è strana sta canzone. Siamo a 8 minuti e 12. E adesso è partita con la chitarra. Le percussioni. Quasi quasi la metto in pausa. Ah, ecco, è partito anche. È partita la sveglia. Abbiamo, sì, perché abbiamo. Perché per ricordarmi che bisogna telefonare a Maria Donnoli. Perché? Appunto. Perché? Il centralino è impegnatissimo. Perché è cominciato. Con una nuova traccia. Quindi sono 28 minuti. 20 minuti, 28 secondi. 20 minuti, 28 secondi. E qualche settimana. Dicevo. Mi raccomando, 333 1809 49. Esatto. Dicevo, è ricominciato, anzi stasera ricomincia Per Aspera, che è un festival di teatro, e noi dobbiamo telefonare a Maria Donnoli, che è una delle nostre fans. Sicuramente una delle nostre fans, ma è una delle organizzatrici di Per Aspera, che però mi ha scritto non posso, sto partendo, e dunque chiama Ennio. Chiamiamo Ennio, perché qual è il problema? Cioè, ragazzi, nessun problema, lei deve partire perché ha da fare le sue cose, giustamente, perché ognuno fa le sue cose. Esempio, io prima ho chiamato ti abbasso un attimo, è occupato Ennio. Puoi ricominciare a parlare, perché Ennio è occupato. Prima, ragazzi, ho chiamato la Manu di Bologna, mia amica intima, e niente, si è lasciato col fidanzato, perché il fidanzato è in Sardegna, uh-huh. E allora l'ho sentita pochi giorni fa e le ho detto: sto lavorando a Bologna, ma non ancora in Radio City, pubblico. E lei mi ha detto: sono a Corfù. Ah, a Corfù. E ho detto: ah bello, non sapevo neanche dove era Corfù. Ho detto: ah bello. Niente, l'ho sentita stasera e le mi ha detto: ciao Fede, quando voi ci vediamo parto per la Puglia. Ah, vedi? E siamo a 10 minuti e 33. La chitarra sembra un po' Santana, eh? Vabbè. Quindi, no, ma lei è andata in Puglia perché ritorna? Andata in Puglia perché ritorna? Vabbè, no. Sì, Sì, perché ha voglia di vedermi. E in questo momento sta andando in giro Around the World, quella famosa canzone dei Daft Punk, Around the World. Quella forse ce l'abbiamo. Allora, se qualcuno si ricorda Around the World, pensate alla Manu, la mia amica, che è andata con tu. Abbiamo già mangiato le pizze insieme, abbiamo fatto tutti. Però adesso va in Puglia a mangiare delle pizze con qualcun altro. Attenzione, attenzione. Con qualcun altro, attenzione, attenzione. Qualcuno fa dei gesti con le due dita e una mano, non si sa cosa voglio dire. Ma attenzione, attenzione. Guardate che si diverte. Walk and roll. Adesso abbiamo la nuova traccia da Punk. Oppure la musica è però quel Casadei si chiamava Ciao Ciao Mare, oppure Romagna Mia, oppure adesso invece mettiamo Da Punk. Chiudo la chitarra. Altro che Lenny Kravitz. Lenny Kravitz è importante. Ha imparato da questi ragazzi qua. Lenny Kravitz è venuto a casa mia ieri. Il caffè per lui vuole essere tutto. Vuole tutto rinnovare. Allora io che mi ha parlato di meno, io ho detto che finisce da. Allora io e Lenny, vabbè, io e Lenny Kravitz, a volte usciamo e andiamo a Bologna al 333 1809 494. Vedo siete fuggito. Infatti Lenny Kravitz è in bagno che sta pisciando. Si può dire pisciando? Cosa combina in bagno Lenny Kravitz? Ma sta pisciando. Mi sembra che stia pisciando. E poi ha detto devo andare, alzate il dito e detto. Comunque siamo riusciti a far finire ospite Lenny. Si è riusciti a far finire questa canzone e anzi ci sta richiamando Ennio. Un attimo, attenzione. Eccoci qua. Ennio, sei tu? No, ho sbagliato numero. Ho sbagliato numero. Chi sei? Io sono Antonio. Sei di Peraspera? Sono di? Peraspera? No. Ah, cavolo, ho proprio sbagliato il numero, fantastico. Va bene, può capitare, mi dispiace, scusa. Perché... è la seconda persona che sbaglia numero. Ah, cavolo, allora oggi è una giornata sfortunata. No, ma sempre mi chiedo. Sei in viaggio, certo di Peraspera. Ah, fantastico. Questo Peraspera è un. Mi hanno detto che la signora che starebbe dando il numero di Ennio, non ricordo chi è, perché una signora me l'ha scritto sul messaggio. Lei si chiama Maria, è molto carina lei, quella che mi ha dato il tuo numero. Ah, ok. Comunque glielo dico, no, glielo dico. Dico a Maria di non dare più il numero di Ennio sbagliato dandogli il tuo. Ma non vuole dare il numero di Antonio, a quel punto può dare il mio numero. Molto bene, allora grazie Antonio, scusami tanto e buona. Un abbraccio, buona serata. Ciao, buona mi serata. Mi raccomando, 333 1809 494. Non intasateci tra fantastico. Di loro. Questo, sì, però questo... non intasate come al solito perché siete. Un po' mascalzoni. No, ci scusiamo con Antonio e ci scusiamo anche con Maria e con Ennio, però Peraspera comincia, ma io non posso farvi le domande perché non ho. Quindi tutta suspense. Vedremo. Oppure, è uno sviluppo. Oppure potremmo fare questo numero qua, che io chiamo Maria di nuovo e le racconto. E attenzione, quello che ha detto Ennio e Antonio. Esatto. E se Antonio ha detto la verità, Emilia non si arrabbia. Allora. Quindi attenzione, attenzione che facciamo questo numero qua, facciamo visto che tanto Cosa c'è? Ti stanno telefonando anche a te? Abbiamo l'intasate, troppi messaggi. Allora rispondete. Ma tanto non ci crede nessuno, cioè lo puoi dire all'inverosimile. Cioè, basta, perché ho il cell. Fortuna che la mica è di fuori, perché altrimenti abbiamo le linee intasate in tutta la radio a City. Allora, Maria, ecco qua il numero di Maria. Ah, forse ce l'avevo anche. Ah, un nuovo messaggio, aspetta. Ah, ecco, grande. Maria mi ha scritto scusa e mi ha dato il numero giusto. Per cui adesso continuiamo all'angolo della menzione e telefoniamo finalmente a Elio. Io ho anche Irene 2. Ti abbasso un po' perché ho bisogno di sentire Ennio. Carla, Sara. Ennio! Ennio, sì, Ennio. Che casino, Maria mi aveva dato il numero di questo Antonio che in diretta Antonio. Si è scusato, che ha detto guarda che c'è questa signorina che dà il mio numero a tutti, ho detto guarda è una signorina molto carina, magari prima o poi la conosce. È molto bella, diglielo ad Antonio. Lo so, no, ma io lo so benissimo che l'ho vista. Come stai, Ennio? Sono Stefano di Coxo Spaziale, naturalmente, lo sapevi che ti avrei chiamato. Ciao. Come va? Bene, tu come va? Siamo già in diretta, sono qua con DJ Fede Cortellato. Ah sì, salutami tutti là. Molto bene, allora benissimo. Tu lo sai che Fedra mi ha dato delle cose da chiederti, allora io te le leggo, poi tu mi dici che cosa ne pensi. Allora, prima... No, stai buono un attimo, Fede. Allora, il 16 settembre è partita l'undicesima edizione del Festival Per Aspera, che come da tradizione si rivela con eventi performativi ed installativi nella città metropolitana di Bologna, tra palazzi storici, gallerie d'arte e molto altro. Abbiamo in linea Maria Donnoli, una delle colonne portanti del festival. Ciao Maria! Cominciamo dal titolo della rassegna? Dimmi tutto. Come si chiama la rassegna quest'anno? Pelle. Pelle, raccontami tutto. Perché io qua nel perché? Io ci Molto bello. Complimenti. Questo tema, gli artisti, sì. E gli artisti hanno deciso, ognuno a suo modo ovviamente, come interpretarlo. Quindi fra tutti gli artisti che abbiamo chiamato, sia abbiamo cercato con degli artisti di fare un certo discorso, che già conoscevamo gli artisti, e con altri invece attraverso la colla. Attraverso la colla abbiamo preso una metà degli artisti, 5 artisti nella colla e 5 invece a chiamata diretta. Tutti questi artisti hanno lavorato a questo tema, che è pelle, ognuno a suo modo. E ad esempio stasera invece siete a Montesole, dove c'è il coreografo Fabrizio Favale che ha costruito il suo intervento, giusto? Giustissimo, è qui a fianco a me. Ah, addirittura, ce lo passi? Ciao Fabrizio! Ciao Fabrizio! Dai, grande! Ciao Fabrizio! Ciao, buonasera! Ciao, buonasera! E raccontaci che cos'hai, come funziona il tuo intervento, cosa hai combinato? Cosa ho combinato? Allora, ho fatto uno spettacolo commissionato appunto dal Festival Per Aspera, per cui insomma una commissione è già qualcosa di complicato, perché ti chiedono delle cose ben precise, di lavorare su una località ben precisa che appunto in questo caso è Montesole, e quindi l'impegno è stato doppio, diciamo, soprattutto perché appunto Montesole è un luogo, come sapete, insomma particolare, no? Certamente sì. Esatto, e quindi è stato molto molto molto intenso, direi, molto emozionante, un po' per la partecipazione appunto a Per Aspera, che per noi è sempre un momento così di gioia e di invenzione, perché ci lasciano veramente sempre carta bianca, per cui abbiamo la possibilità di inventare veramente cose nuove, e un po' perché Montesole, insomma, per me come autore ha rappresentato qualcosa, insomma, un po' una sfida, essendo un luogo molto particolare e che merita veramente la memoria di ognuno di noi. Per me come autore, come coreografo, è stata un po' una sfida, perché insomma ho dovuto fare i conti con quello che evoca, no? Ma Montesole Fabrizio, scusami, intendi le colline bolognesi? Certo, sì, ma fa botto. Il posto è chiaro. Senti una cosa, ma il tuo intervento è già finito, è già passato, o deve ancora arrivare? Che è già passato? No, no, no, no, no. No. È già passato, è stato al tramonto. Ah, fantastico. È stato alle 6:30, per cui abbiamo aspettato che il sole andasse dietro i monti. eventi qui di Marzabotto. A Crepuscolo. E a quel punto è iniziato, abbiamo coinvolto un contadino vero che è passato con il suo trattore a cingoli. È stato molto emozionante, poi sono arrivati i danzatori che erano completamente fantastico, nudi, grandi, lo sapete, no? Grandi, fantastico. Lo sapevate? No, non sapevamo assolutamente niente, perché cioè, io sono un ignorantone spaventoso di teatro, ma Federico qua di fianco a me è ancora peggio, capito? Perché lui è un DJ, è un DJ da discoteca, per cui siamo pessimi. Però naturalmente, siccome vi vogliamo molto bene, appunto. Quindi no, invece, è uscito con i cingoli? No, insomma, è stato difficile perché io ho proposto di fare appunto un lavoro con 5 danzatori, 4 danzatori uomini e una danzatrice donna completamente nudi, perché mi sembrava insomma un messaggio di disarmo molto, molto, molto forte. Non voleva essere niente di scandaloso, però insomma, essere... tutto sommato, ma ci hanno proibito di farlo nell'area pubblica del parco, per cui insomma alla fine siamo stati ospitati da un'azienda privata che si chiama Al di là del fiume. Molto generosi, e noi da di qua del fiume li ringraziamo. Da di qua del fiume, esatto. Ma io ti ringrazio, Fabrizio, ma ti chiederei di ripassarmi Ennio, che volevo chiedergli che cos'altro. Come è andato via? Ha detto questi due deficienti, chi se... no, okay. No, perché so che il festival continua. È pronta la cena, buon appetito. E beati cosa voi. Ragazzi, cosa mangiate? Vino bianco. Carne. Tutto biodinamico, fantastico. Certo. No, senti una cosa, so che per Aspera dura fino al 23 settembre, per cui ci sono altri 2 giorni. Cosa ci aspetta? Sì. Cosa dobbiamo venire a vedere? Allora, domani sera a Cristiana Volanti ci sarà un'installazione di un artista che si chiama Ivana Ruffolo. Fantastico. E dopo domani invece alle Serre. Sì, alle Serre qua vicino, qua su Ai Giardini, esatto. Margherita, ok. Sì, sì, sì. Cosa c'è? Ci saranno i DST, che è un gruppo che fanno musica e video insieme, di una elettronica ovviamente, contemporanea. Ottimo, e il gran finale? Il gran finale sono loro, giusto? E il gran finale sì, sono loro, sono ho capito. Loro alle Serre. Per cui... Oddio, la cena che ci faremo tutti sarà un gran, bellissimo finale. Molto bene, allora... Ci vediamo il 23 alle Serre, direi. Ma domani, scusa, l'installazione a Cristiana Morandi, no? Beh, scusa, no. A casa di Morandi, di Giorgio Morandi. Hai ragione. È vero, hai ragione. Fra l'altro, io sono qui. Io sono già messo nella lista VIP. No, ma infatti, fra l'altro, hai ragionissimo. Io sono quello che si occupa d'arte contemporanea e non viene a Cristiana Morandi. Messo nella lista VIP, lo so, no, hai ragione. Allora, Stefano arriva. Allora, ci vediamo domani a Cristiana Morandi, ok? Esatto. Ci vediamo domani e poi anche con la chiusura dell'Iferro. Fantastico. Mi raccomando, domenica. Alle 7:30. Domenica alle 7:30, tutti alle Serre dei Giardini Margherita al finale di Per Aspera. Grazie mille, buona serata e soprattutto buona magnata. Ciao Fabrizio, saluta Ennio. Saluta Ennio, un abbraccio. Ciao, a presto. Ciao, ciao, a presto. Ciao. Sono invitato. E questi sono i Daft Punk con Around the World, come avevamo allora, promesso. Allora, Coxo spaziale. Ragazze, yeah. Allora, ragazzi, stiamo parlando del Manu, la Manu di Bologna, che lei mi ha detto che arrivava il Sei spaventoso. In Puglia, e gli ho detto: ma fai quello che vuoi. Dato noi abbiamo già. Rimani sul vago, dai. Lo dico, abbiamo già mangiato la pizza insieme. Ho capito. Bello sto pezzo. Io non sono un gran tipo da discoteca, però effettivamente il radio ci sta bene quando sei in macchina che ti viene voglia di andare più veloce, che non va bene con questa musica, no? Perché, ma perché poi è anche bello, perché quando magari finiti di lavorare o hai un appuntamento, questa qua è la famosa canzone del break, della pausa. Quindi cosa vuol dire Around the World? Vuol dire testo le parole. Esatto. Un gran testo. Questo testo è molto allora, questo testo è lunghissimo. Around the World. però fatti soldi. Non è che bisogna fare per forza il testo complicato, tipo John Lennon che bacia abbracci, perché John Lennon è tutto ieri sera con Yelly Krebs. Basta dire Around the World, tu quando vai in giro dici Around the World e basta, fai soldi. Tipo 27 volte, vabbè, ma non è una questione 22 di soldi. 22 volte. È una questione di. È una delle tracce concetto più gettonate nel disco, perché, vabbè, i The Fuck sono francesi. E vabbè, possiamo dirlo. Forse possiamo alcuni, dirlo. Alcuni fautori di Daft Punk. C'è Bob Sinclair dietro, c'è un sacco di gente, non pensate che Daft Punk. E poi c'è il famoso chitarrista dei The Chic, lo che ha fatto negli anni 70, sei la canzone The Chic. You are scary, sei spaventoso. Quindi andiamo avanti. You are scary, questo testo impegnativo. Direi che lo facciamo un giovane pasco di mi farebbe un po'. Invece in Russia dicevano perché, così. Perché se Giovanni Pascoli avesse ascoltato Around the World, avrebbe scritto tu. Che vuol dire? Sei spaventoso. Around the World. Buffy e Miriam. Alrededor del mondo. C'è nato un cinema storico a livello cinematico. I Daft Punk hanno avuto l'esclusiva per fare la colonna sonora. Il soundtrack di? E di Tron. Ah, il rifacimento di Tron degli anni 2000. In che anno è stato Tron? L'originale era dell'82-83. Esatto. Avevo la moto io avevo la moto gialla che dovevo e io avevo a destra, quella a rossa che invece ti schiantavo contro, esatto, tutte le volte. E poi avevamo i frisbee per quello elettronico. No, il dramma è che così dicendo svegliamo la nostra vecchia età, che è giovine. Giovine. Perché noi, vabbè, a prescindere, se un esempio, ragazzi, adesso 103.1 come al solito, comunque se noi parliamo anche di eventualmente di Magellano, parliamo del nostro giovane età. Magellano era il famoso navigatore. Se parliamo di punk. Parliamo eventualmente di Magellano. Vamos a hablar de Magallanes eventualmente. Magallanes. Ah, io farei una tortilla, un attacco, gentilmente. Scusate, ma abbiamo qua la cameriera, quella che è da spot. Due tacos. Dai che mi fai venire fame, che non abbiamo ancora cenato. E due tequila. Comunque bisogna andare, secondo me dobbiamo andare su a Montesole adesso. Assolutamente sì. A vedere però infatti la che la Montesole Maria, io conosco tutti a Montesole. Ah sì? Chi conosci a Montesole? Ho dormito a casa del capo di quello che era a casa e quando c'erano i muli, sai che i muli, ha lasciato il libro di muli, io avevo la macchina, i muli mi sono passati di fianco alla macchina, asini scusa. Però io ho scoperto che gli asini, cioè io una volta a Stefano dicevo te un submarunaz, invece il submarunaz è di dire doctor astronauta, cioè è un privilegio. Parlando di Magellan eventualmente, se uno dice te un submarunaz è un privilegio dire dottore, avvocato, chimico, chirurgo, porno. Peccato che non funzionava Instagram, per cui non siamo riusciti a postare. Basta con i messaggi su WhatsApp, basta perché abbiamo intasato, adesso risponderemo a tutti. Elisabetta, a dopo, Elisabetta se ne ha mandati 18. Oh. Ah, 18. Sì, insistendo che a Rendezvous le piace di Daft Punk. Va bene Elisabetta. Ah, perché avevo una domanda personale a Stefano. Ah sì. Vabbè, quindi lo fate in privata sede, Elisabetta. Dai che poi mia moglie magari mi ascolta. No, perché Elisabetta ha detto che anche non è bruttissima. Ha la gobba, i baffi, manca una gamba. No, ho visto la sua amica l'altro giorno, l'amica di Elisabetta. Simpatica. questo, caro amico, noi abbiamo 8 minuti rimasti di Coxo Spaziale. Abbiamo fatto una delle trasmissioni più trasparenti in assoluto della serie. Non si è neanche riusciti a capire che cosa succede a Peraspera. Spero che i nostri amici non si offendano, innanzitutto. A parte che poi vi saluta il cantante dei Depeche Mode, Dave Graham, vi saluta. Mm-hmm. Ha ringraziato Radio City Fujiko, Dave Graham, il cantante dei. A me mi sono sempre stati un po' sui maroni Depeche Mode, se proprio lo dobbiamo dire. Vabbè, ci ha offerto i tacos. No, invece i Central Unit. Ci ha offerto i tacos. Tu li conosci i Central Unit? Hanno fatto un nuovo disco. Rock and Roll. E lo presentiamo fra 2 settimane. Rock and Roll, bene. Sempre se abbiamo ancora un nostro slot, perché può darsi che ascoltando questa sera può darsi che il nostro direttore dica: ma sai che Coxo Spaziale non abbiamo più spazio per, non abbiamo più una ma slot per, di fede per Coxo Spaziale. Esatto. No, io Stefano, ti dicevo, all'epoca quando lavoravamo in Loga, Stefano mi chiamava te un Sumarnaz. Un Sumarnaz ti chiamavo. Eh beh, certo, succede. Comunque sai che poi cosa è successo? A parte che tu poi facevi il grafico e io facevo l'art editor e dopo, esatto, sono finito per fare il grafico anch'io, sai? Bravo. Adesso attenzione, è arrivato un nuovo messaggio. Sì, sì. Alessandro Giumbo Manfredini. No, Alessandro Giumbo Manfredini. Cosa scrive? Ah, non lo so. Spot Street scriveva: vi ringrazio, ottima trasmissione. No, io invece con due S, però Manfredini. Adesso sempre per continuare a farci gli affari nostri e a fare una trasmissione molto internazionale, molto, molto filosofica, proprio di livello alto. Cool. La Clelia Venturelli, te la ricordi? La Clelia aveva fatto il famoso spettacolo. Vabbè, non c'è bisogno che inventi qualcosa, basta che ascolti me. Io ogni tanto, siccome ho un'altra, ho un'ex studentessa con cui ogni tanto collaboriamo artisticamente, eccetera, che si chiama Clelia, anche lei, ogni tanto mi sbaglio e telefono alla Clelia Venturelli e tutte le volte lei mi dice: ma come sei messo, capito? Allora, innanzitutto un abbraccio a Clelia, che abbiamo lavorato insieme la alla Logos. Alla Logos. Che lei faceva anche The Show, i spettacoli. E è vero, faceva l'attrice, la ballerina. La ballerina, è vero. Rocky Horror Picture Show, hai ragione. Senti, no, ti volevo dire, mancano 5 minuti. E a chi mancano? Alla trasmissione. Ah, pensavo a me. Spero bene di no. Ma Advanced Rock and Roll Pro. Bene ragazzi, allora, no, mi raccomando, basta le chiamate. Esatto, stop al televoto. No, hai un pezzo che vuoi sentire? Cosa vogliamo sentire? Cosa ci fai sentire, DJ Fede? Adesso abbiamo una nuova traccia. No, ma che tipo di musica? Guarda. Quello che ti pare. Come quello che ti pare? Si sente. Chi è David Holmes? È un tuo amico? David Guetta? Getta Blaster 2004 o Fuck I'm Famous. Fuck Me I'm Famous. Bello Fuck quella Me quella I'm che famous. Vuoi, una delle tante. Ok. Bene. Adesso entriamo nella fase house. Come? Future house David Guetta. Un disastro. Allora aspetta From Friends. Io intanto basta con le chiamate. Basta perché abbiamo un disastro. Allora, esatto. Ma soprattutto ti ringrazio. E dico questa Lenny Kravitz è uscito dal bagno, ha preso una tortiglia e abbiamo pagato noi però. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla che si chiama Fucking Track. Questa musica di sottofondo è la mia? No, l'avevo spenta, o ancora lì che va? No. Ah no, invece è ancora lì che va. Succede nelle migliori famiglie. Questo era Coxo Spaziale e questa era sempre Radio Città Fujiko 103.1. Questo era DJ Fede Cortellazzo, detto anche DJ Rock quando mette rock. Supersonic. DJ Fede per Stefano. DJ Fede per Sumarnaz. Me. Sumarnaz per Giumbo e Manfredini. Marco Mango che potevamo anche non menzionarlo, ma va bene lo stesso. La Lia Govi. La Clelia. Adesso un abbraccio anche a domani Clelia, su Facebook li taggo tutti domani su Facebook. La Clelia è una delle nostre segretarie più importanti, perché ma come segretaria, scusa, era un art editor anche lei. un art editor, scusate, perché no, segretario, no, perché sei segretario, proprio, no, sei proprio un maschilista di me, no, dai. Perché segretario mi è arrivato il numero di telefono adesso della mia segretaria, ah, che si chiama Valentina. Valentina Walker Wall. Com'è la Valentina? Vediamo, Valentina, aspetta, Stefano, adesso sentiamo il messaggio di Valentina, attenzione, dal vivo? Sì, non so cosa abbia detto, fai un altro Walker Wall, il radio. Valentina, cosa dice? Cosa dice Valentina? Questo era. Ma grandissima la Valentina, che gli devi fare benzina. E dunque fai benzina a Valentina. Allora aspetta, facciamo una chiamata. Ah, una chiamata dal vivo? Sì. Fantastico. Metti in viva voce per bene, sì. Ciao Vale, sono con Stefano Pasquini in radio Fujiko, siti Fujiko. E sei in diretta, Dio buono, ti dobbiamo fare. Sei in diretta, Vale, sei in diretta. Come sono in diretta? Sei in diretta, Vale. Sei in diretta sulle frequenze 103.1, Vale, non lo sapevi, entri, sei mai immaginato? Vabbè, dai, dopo vengo a fare benzina, dai. Con Stefano però. Ma Pasquini. A Bologna. Sì. Ci sono i benzinai anche qua, eh? Ah, davvero? Sì. Non fare. Sono anticappato, devo chiamare i miei colleghi. Fantastico. Dai, arrivo io, Valle, non ti preoccupare. Un abbraccio, dopo. Ciao. Grande Valentina, questo era Coxo Spaziale. Dobbiamo segare tutto perché partono gli spot. Adesso parte la sigaretta per DJ Feder. Ah, fumi ancora te. Sì. Bravo. Io ho smesso nel 2004. Io e te non ci vediamo dal 2004. Vabbè, è stato bello, questo era Coxo Spaziale, ci vediamo venerdì prossimo, ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20, sempre su Radio Città Fujiko 133.1 però non importa perché adesso ce ne stiamo andando perché parte. Basta intesare ancora i centralini. La pubblicità. Perché ho sentito molte ragazze che cercano Stefano. Oh, caffo. È partito lo spot. No.